quelli a protezione delle zone costiere, ovviamente sono zone molto vulnerabili e quindi difficili da proteggere, quelli a protezione del settore agricolo, che è quello più vulnerabile soprattutto per fenomeni di scarsità delle risorse idriche, e di intervenire con una riprogettazione, con una ristrutturazione del nostro sistema di irrigazione, soprattutto per l'Italia meridionale, è particolarmente importante. Le zone montane pure saranno molto colpite, soprattutto per quanto riguarda il turismo invernale, e lì però credo che dovranno adattarsi al cambiamento climatico attraverso una riconversione della loro attività produttiva. Quelle zone, soprattutto quelle a quota più bassa, dove l'innevamento non sarà possibile, dove non sarà possibile nemmeno l'innevamento artificiale, perché la temperatura più alta renderà difficile l'innevamento artificiale, quelle zone dovranno adattarsi a puntare su un turismo diverso, non più quello sciistico invernale, ma con altre forme di turismo nelle zone alpine. E grazie a Cristina Carpinelli per questa intervista. L'appuntamento con lei è per la prossima settimana con un altro ospite. Ora è il momento invece di Articolo 9, la nostra rubrica che si intitola così in ricordo dell'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati. Buongiorno a tutti. Abbiamo in collegamento con noi Giampiero Sammuri, che è il presidente del Comitato Parchi per Kyoto e presidente di Federparchi. Buongiorno, dottor Sammuri. Buongiorno. Ecco, con lei oggi parliamo di verde, parliamo di parchi, parliamo di importanti iniziative perché il nostro pianeta intero venga rimboschito. Intanto, che cos'è l'associazione Parchi per Kyoto? Beh, è un'associazione che nasce dalla fusione, diciamo, dall'insieme di tre soggetti diversi, che sono il Kyoto Club, la Federparchi, appunto, e Lega Ambiente, e che si occupa proprio di contrastare i cambiamenti climatici, l'effetto serra, attraverso progetti di forestazione e riforestazione sul territorio italiano. Ecco, e quindi una importantissima iniziativa a livello internazionale sostanzialmente. Assolutamente sì, perché si inquadra proprio in una strategia internazionale. Certo, e so che la settimana scorsa a Milano avete tenuto una importante conferenza stampa al Centro Botanico di Via Cesare Correnti a Milano per ragguagliare su quanto fatto in termini di progetti, soprattutto in Italia. Ecco, che cosa si sta facendo, cosa si è fatto fin qui in Italia per il rimboschimento? Beh, noi abbiamo fatto praticamente ad oggi, sono stati già realizzati 19 progetti di riforestazione in tutta Italia, in aree protette di tutti i tipi e non solo, anche in altre attività, e abbiamo complessivamente messo a dimora, col numero preciso, 64.597 alberi in questi progetti, che vanno ovviamente a contenere le emissioni di CO2 e soprattutto poi anche a rinaturalizzare alcuni ambienti con le essenze autoctone proprio di della zona dove abbiamo fatto gli interventi. Ecco, tra questi 19 progetti può farmi qualche esempio? Dove siete intervenuti in particolare? Sicuramente, diciamo che il primo è stato fatto ad esempio nell'area marina protetta del Plemmirio in Sicilia, poi Delta del Po, sia Veneto che Emiliano Romagnolo, la riserva naturale del Tevere Farfa nel Lazio, la riserva naturale della Ghiaccia Botrona in Toscana, il Parco Nord di Milano ad esempio, il Parco Fluviale del Po, insomma dell'Olpa. Abbiamo praticamente spaziato in tutte le regioni italiane con diverse tipologie di interventi. Ecco, e poi proprio in quell'occasione, l'altro giorno, avete anche dato uno sguardo al futuro, addirittura, se non ho capito male, avete a disposizione ancora una cinquantina di progetti da seguire. Ecco, ci parli un attimo di questo futuro, visto che 19 parchi già sembrano tanti, ma voi ne avete già identificati 50 da rimboscare. Ecco, di che cosa si tratta questa parte? Si tratta di proseguire sempre più o meno con la stessa tipologia, cioè andare a fare degli interventi che da una parte sono di rinaturalizzazione e quindi hanno anche una funzione importante per la tutela della biodiversità italiana, dall'altra proprio per l'effetto che appunto svolgono le piante, servono appunto all'abbattimento delle emissioni di CO2 e quindi al contenimento dell'effetto serra. E chiaramente qui spaziamo ancora di più, essendo più i progetti, in tutte le tipologie di ambienti e di aree protette italiane. Ecco, quindi ancora una volta sul territorio, io vedo qui il Vesuvio, la Maddalena, sì, in Sardegna, sì, sì, il parco di Portofino, insomma agirete, certo, in tutta Italia. Ecco, le faccio una domanda, però le piante costano, come, certo, fate a sostenere questi progetti di rimboschimento? Beh, noi abbiamo su questi, diciamo, progetti sempre uno sponsor che finanzia ovviamente l'intervento, quindi sono aziende di tutti i tipi che contribuiscono a fare questi progetti, perché chiaramente non è che li possiamo fare con risorse nostre, certo, chiaramente. Certo. Quindi abbiamo degli sponsor che sono imprese, alcune importanti, alcune multinazionali, alcune nazionali, che appunto sostengono le iniziative. Ecco, e naturalmente le faccio anche ancora un'ultima domanda, non sempre le cose vanno bene, cioè in questo progetto, in questo sforzo, quali ostacoli, difficoltà incontrate? Ah, le difficoltà diciamo che talvolta sono legate alla diciamo necessità di una progettazione specifica, ovviamente, che giustamente deve essere fatta nelle aree protette e che non sempre, diciamo, arriva con la velocità necessaria, però questa, diciamo, poi è l'unica difficoltà. Devo dire che per quanto riguarda le risorse, gli sponsor, eccetera, insomma, si trova una certa disponibilità, insomma, ecco, non è che si trova un'ostilità, insomma, a contribuire su queste iniziative che costano, ma nemmeno stracostano, ecco, diciamo. Insomma, così. È un futuro roseo verde il vostro. Dottore, io la ringrazio moltissimo di questa testimonianza, di questa partecipazione, faccio molti auguri a questa iniziativa che naturalmente serve a tutti noi. Grazie agli ascoltatori. Bene, grazie davvero. Arrivederla, grazie. Ed è tutto anche per questa puntata. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.